Questa mattina si è recato all'Università di Roma III il ministro per le politiche agricole Alemanno, invitato da una serie di personaggi e realtà dell'estrema destra romana, tra cui, oltre ad Azione Giovani, che è l'organo giovanile dell'Alleanza Nazionale, anche il Foro 753, che è un'occupazione di fascisti che in qualche modo costituisce l'anello di congiunzione tra Alleanza Nazionale e l'estrema destra a Roma. I militanti di destra, di EN del Foro 753, hanno pensato bene di presentarsi sin dalla prima mattinata per fare delle ronde armati di caschi, bastoni e pugni di ferro per intimidire e aggredire i compagni che si recavano all'università per contestare la visita di Alemanno a Roma 3, visita che aveva ben poco a che vedere con i suoi impegni istituzionali, ma aveva molto a che vedere invece con un'operazione che l'estrema destra romana sta cercando di fare nelle università romane. Verso le 8:30 di mattina circa 7 compagni sono stati aggrediti da questi personaggi del servizio d'ordine del Foro 753 di AN, personaggi che erano evidentemente tutt'altro che studenti, personaggi su una trentina d'anni armati appunto di caschi, bastoni e spranghe, e due compagni sono finiti all'ospedale, uno con un braccio rotto, un altro con un taglio evidente vicino l'occhio, anch'esso è stato ricoverato, mentre altri compagni hanno riportato delle contusioni. Quindi la giornata è iniziata con questa intimidazione che è stata in qualche modo rivendicata dallo stesso ministro Alemanno, il quale ha detto davanti all'assemblea che la colpa degli incidenti in verità era di chi voleva contestarlo, e questo a nostro avviso è un atto particolarmente grave. I compagni erano circa una cinquantina tra i compagni collettivi di Scienze Politiche e di Roma 3 e altri compagni della Sapienza e altri compagni di Movimento a Roma, e all'inizio erano una cinquantina, poi piano piano, quando si è diffusa anche la notizia di questi atti intimidatori, il numero è aumentato, ma la polizia ha pensato bene di coprire e difendere questa operazione di Alemanno e dei suoi sgherri, e la polizia ha circondato di fatto il sit-in dei compagni, che poi si è sciolto intorno a 12:30, e nel frattempo Alemanno ha potuto continuare indisturbato. Ammessi all'interno dell'università sono stati solo gli studenti di destra, e non solo studenti, perché come dicevo prima c'erano personaggi con un'età ben superiore a quella di un universitario, e quindi ha potuto svolgere la sua conferenza indisturbata.